24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati all'appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano, in un notiziario quasi monotematico, il vertice europeo a Bruxelles, che ha avuto un prologo interamente dedicato alla politica italiana con l'investitura del centrodestra europeo a Mario Monti. Nuovi e importanti progressi in Europa con l'accordo sulla vigilanza bancaria e lo sblocco dei nuovi aiuti alla Grecia. La Corte di Giustizia europea annulla la riduzione delle sessioni plenarie a Strasburgo. Oggi, infine, un focus di 24 ore in Europa sulla Siria con l'intervista alla commissaria agli aiuti umanitari Georgieva. In apertura, come dicevamo, l'investitura di Mario Monti a candidato premier del centrodestra europeo e non solo. Monti è arrivato a sorpresa al vertice dei popolari europei nel pomeriggio, invitato dal presidente Martens. Il risultato del vertice PPS è risolto in un plebiscito a favore dell'attuale presidente del Consiglio italiano, al punto che alcune fonti, poi smentite più tardi, hanno riferito che la stessa cancelliera tedesca Merkel avrebbe chiesto a Monti di candidarsi alla guida dell'Italia. A stretto giro di posta hanno appoggiato Monti anche il premier finlandese Katainen, il presidente dell'Eurogruppo Juncker e il premier olandese Rutte, che è stato esplicito: il PPE appoggia Monti, non Berlusconi. Un tale successo per Monti che persino il presidente francese Hollande, socialista, ha dichiarato: è l'uomo che ha consentito all'Italia di rialzarsi e di riprendere un ruolo chiave, ha fatto sì che ora sia rispettata. Dichiarazione suggellata da una lunga stretta di mano tra i due. La giornata di ieri ha segnato dunque la fine di ogni ambizione per Silvio Berlusconi. Se anche si candiderà, difficilmente troverà sponde in Europa. Per Berlusconi una situazione paradossale: anche lui ieri era presente al vertice PPE, ma quasi totalmente isolato e messo all'angolo. Ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco, unendosi al coro dei supporter di Monti. Proprio Berlusconi è tornato infatti a candidare Monti a premier, senza però ricevere alcuna risposta dall'interessato. Insomma, stando alle dichiarazioni di ieri, l'Europa ha fatto le sue primarie, sia Monti, continui, è essenziale per l'Italia e l'Unione Europea, ha detto il leader popolare Martens, e no a Berlusconi, non tornerà, gli italiani non hanno dimenticato che è lui che ha governato negli ultimi 10 anni, ha affermato il suo oppositore numero uno in Europa, il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz. Sempre ieri conferenza stampa tra Monti e il presidente della Commissione Europea Giuseppe Barroso, sentiamo. A Bruxelles Mario Monti incassa anche le lodi del presidente della Commissione europea. A fianco del premier, in conferenza stampa, Barroso promuove le riforme avviate dal suo governo e i risultati raggiunti finora per far uscire l'Italia dalla crisi. We need a strong and stable Italy in Europe. In Europa abbiamo bisogno di un'Italia forte e stabile, spiega Barroso, che fa sapere di averlo detto anche a Berlusconi. Da Monti nessun accenno all'invito a scendere in campo arrivato dal Cavaliere. Parole rassicuranti invece per i partner europei. Qualunque sarà l'esito delle elezioni italiane, ci sarà in Italia un governo che si collocherà nella linea tradizionale di un forte appoggio dell'Italia all'integrazione europea. L'avanzamento dell'integrazione europea rappresenta un interesse nazionale per l'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dopo 17 ore di riunione, l'Ecofin ha raggiunto nella nottata tra mercoledì e giovedì l'accordo sulla supervisione bancaria europea. L'annuncio è arrivato nella notte dopo 17 ore di maratona negoziale. Via libera dell'Ecofin alla supervisione bancaria europea, primo passo verso l'unione bancaria. Dal 1 marzo 2014 la BCE avrà il potere di monitorare tutte le banche della zona euro e dei paesi fuori dalla moneta unica che aderiranno all'Unione con asset per almeno 30 miliardi di euro o che rappresentano il 20% del PIL del paese. L'accordo ha come obiettivo restaurare la fiducia nel sistema e interrompere il circolo vizioso tra banche e crisi dei debiti, ha detto il commissario europeo al mercato interno Michel Barnier nel dare l'annuncio. Il testo finirà oggi sul tavolo dei capi di Stato e di Governo per la firma, poi passerà al Parlamento europeo. Per questo motivo Mario Monti è già arrivato a Bruxelles, dove oggi è atteso anche Silvio Berlusconi per un prevertice del Partito Popolare Europeo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prenderanno il via la prossima settimana, indicativamente martedì 18 dicembre, negoziati tra Europarlamento e Consiglio europeo per arrivare all'ok definitivo ai regolamenti sul meccanismo unico di sorveglianza bancaria. E sentiamo ora il commento di Salvatore Bragantini, ex commissario Consob e editorialista del Corriere della Sera. Sembra che questo appunto sia un passo importante per il fatto che si rompe quel circolo vizioso fra diciamo, i timori sui debiti degli stati e i timori sulla solvibilità delle banche, in quanto le banche diciamo, che abbiano bisogno d'aiuto non saranno più quando il sistema andrà a regime ricapitalizzati opera degli stati, ma dell'SM o con l'apporto attivo della Banca Centrale Europea. Questa è la questione fondamentale, secondo me, che pian piano si trascinerà dietro tutto il resto. Ci vorrà molta tenacia, pazienza, andare a vedere i dettagli. Penso che per esempio sia importante che la Banca Centrale Europea abbia una specie di diritto di intervento laddove lo ritenga opportuno anche su banche sulle quali non ha diretta competenza e giurisdizione, mi sembra di aver capito dalla lettura dei vari comunicati che sia così, e questo è importante. Con una dichiarazione ufficiale l'Eurogruppo ha formalmente approvato il secondo pagamento all'interno del nuovo programma di aggiustamento economico per la Grecia. In una dichiarazione scritta l'Eurogruppo si felicita del risultato dell'operazione di riacquisto del debito che porterà a una riduzione sostanziale del rapporto tra debito e PIL in Grecia. L'Eurogruppo riafferma che questo, insieme alle iniziative concordate il 27 novembre e a una completa implementazione e aggiustamento del programma, dovrebbe portare il debito pubblico ellenico su un livello sostenibile. L'intesa raggiunta sull'esborso degli aiuti ad Atene segna la conclusione di molti mesi di incertezza per la Grecia e apre la strada al ritorno della fiducia. Così il commissario Olli Rehn al termine dell'Eurogruppo: abbiamo dimostrato che le Cassandre si sbagliavano sul destino greco nell'Eurozona. Siamo ai mercati. Milano ha chiuso la giornata in controtendenza rispetto alle altre borse europee, registrando il terzo giorno consecutivo di rialzi. Sotto la parità invece Parigi, Londra e Francoforte, mentre Madrid ha chiuso in positivo. Il FTSE MIB è arrivato a segnare anche più 1%, poi concluso la giornata più 0,57%. La Corte di Giustizia Europea ha deciso l'annullamento delle delibere con cui il Parlamento aveva ridotto da 12 a 11 le sessioni plenarie a Strasburgo. Non è quindi passato il tentativo di ridurre le riunioni nella città alsaziana, fissando sessioni aggiuntive a Bruxelles. A renderlo noto la stessa Corte che ha accolto il ricorso presentato dalla Francia. E ora un approfondimento speciale dedicato alla Siria. Con noi il commissario europeo agli aiuti umanitari Kristalina Georgieva. Intervistata da Gigi Donelli, la politica bulgara è in partenza per i campi dei profughi siriani in Turchia, dove ormai si ammassano oltre 140.000 persone. Dopo 20 mesi di conflitto, la situazione purtroppo rischia addirittura di peggiorare. Pochi giorni fa l'annuncio, il capo della coalizione degli oppositori invitato a Washington. Allora vorrei chiederle quali sono le vostre iniziative sul fronte umanitario. So che è alla vigilia di un viaggio tra Libano e Turchia. In 20 months of fighting, situation inside Syria has become unbearable for in 20 mesi di scontri in Siria la situazione è diventata quasi insostenibile. Al momento abbiamo addirittura 500.000 rifugiati che si portano verso altri paesi. Abbiamo provato a lungo e in modo abbastanza vigoroso a mobilitare l'attenzione ovviamente nei confronti di questa terribile situazione che si sta verificando in Siria, e sono molto orgogliosa di poter dire che gli europei sono stati in prima linea in questa mobilitazione. Gli Stati membri e la Commissione hanno infatti mobilitato 337 milioni di euro per aiutare i siriani in questa terribile situazione. We also have been very active to bring as much. Siamo stati molto attivi nel coordinarci anche a livello internazionale per fornire aiuti umanitari, e il Syrian Humanitarian Forum è il foro in cui si mobilitano tutti gli stati, anche coloro che sarebbero in un altro schieramento a livello politico come la Russia e la Cina. Stiamo tentando di fare molto di più, ma ovviamente i bisogni della popolazione siriana aumentano di giorno in giorno in modo drammatico. Vi basti pensare che soltanto uno su quattro dei siriani che chiede aiuto riceve poi effettivamente l'aiuto di cui ha bisogno. Inside the country that need help, only one gets it. And the most significant obstacle to un grande ostacolo ovviamente è quello dei combattimenti che si stanno svolgendo in questo momento. I combattimenti aumentano e durante le scorse settimane per la prima volta ci siamo resi conto che lo staff che fornisce aiuti umanitari a livello internazionale in Siria è impossibilitato ad attraversare le zone dei combattimenti e quindi non può fornire gli aiuti necessari. It is becoming close to impossible to cross the battlefield lines. We have lost Abbiamo perso 8 collaboratori umanitari e 18 siriani sono stati uccisi durante il loro lavoro. Molte persone sono state uccise o ferite e in questo momento abbiamo anche un aumento dei rapimenti. The government is doing horrible, horrible things. Vediamo anche che il governo sta facendo cose orribili in questo periodo e purtroppo notiamo che anche l'opposizione sta portando avanti gli stessi terribili atti. L'impatto negativo non è soltanto quello sulle persone a livello presente, ma renderà anche difficile alla fine, quando questo conflitto sarà terminato, riportare la stabilità nel paese visti i conflitti precedenti. And despite all of the difficulties, there is still a dispetto delle difficoltà che si stanno verificando, stiamo tentando disperatamente di fornire cibo, aiuti umanitari a livello medico, coperte e carburante per far sì che questa popolazione siriana riesca a gestire il freddo inverno che sta arrivando, ma la situazione purtroppo non migliora. Giusto per darvi un esempio, i prezzi del gas, del carburante e dei generi alimentari sono aumentati del 200-400% addirittura, e ovviamente per la popolazione è molto difficile gestire la crisi e per noi è difficile fornire aiuti. La Commissione europea sta conducendo una consultazione pubblica sul modo più appropriato di migliorare la qualità dell'aria in Europa. Nelle prossime 12 settimane, riferisce il sito greennews.info, le parti interessate saranno invitate a esprimersi su come il quadro in vigore possa essere pienamente attuato, migliorato e integrato con ulteriori interventi. I risultati della consultazione confluiranno nella revisione globale delle politiche europee sull'inquinamento dell'aria prevista per il 2013. La consultazione resterà aperta fino al 4 di marzo del 2013. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa, condotta in studio da Sergio Nava. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Noi vi auguriamo una buona giornata. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.